mangiano che tu vizzo in cielo e fare in piazza dove più l'armonia di una buccia senti passati di notte rani più o valiuci. Hola, hola. Cacciare! E a che di tre caffè della gamma di Paolo Baracchino. Metterci la stufa. Non ce l'hanno la stufa. Già ce l'hanno, sì. Così mi ha detto, boh. Come faccio, ci freddo? O già la stufa a pellet o mi dici a coccio? No, la stufa a pellet. Però è una camera che magari non usa, boh, non lo so. Ehi, ehi, ehi. Ma ti va con la pelle e no? Ci sono 21 gradi. Non sta bene. Non c'è neanche il riscaldamento acceso ancora, perché noi è centralizzato, capito? A gas ma è centralizzato, lo accenderanno la prima settimana di novembre, quindi. No, adesso da mani che gocci. Eravamo in terrazzo un poco fa con Danilo, che stavano facendo roba. Adesso che mani che gocci, ti puoi immaginare. Chiara, chiara! C'era a sera con la G-Pol, stava chiamando cosa, che era ruggito, non so dove era però, boh, l'ho sentito io, forse quando faccio tutto acceso, abbasso i volumi e me ne vado nel salone a guardare la televisione, capito, non è che è tutto spento, è tutto acceso la stamattina, tutto a 3, 4.30, 4.40 e 140. Poi c'è il 275H sempre acceso e il BMR sempre acceso. Però tutto a volume basso, capito? No, io se devo lasciare la radio accesa in terminazione, chiudo lo squelch e così non si intende nulla, capito? Chiudo lo squelch e se entra qualcuno sento almeno. No, l'ho lasciato una volta. Il BMR senza abbassare il volume, vedo i servizini, c'è la mia moglie che si è sdraiata, ho detto non sta bene, si sdraia un po' pango, un casino, tu capisci tu amico. L'altra volta lo stesso, ho lasciato il 140 e 440, uno nel 23, uno nel 10, con lo squelch chiuso, e il volume sempre prescende, alla fine sono entrato e mi ho spento tutto, ma anche. Ecco. Avanti. Buonasera, Lucky Fortunato qua, coordinate circolazione di Sassari. Ciao Claudio. Io accesso adesso, non so che c'è nella ruota, Ti prendi qua. Ciao Fortunato, buonasera. Con la speranza che tu mi ascolti, cosa stai circolando? Niente, sono uscito dalle gallerie, sto entrando da Cagliari. Grappa, grappa, va bene Fortunato. Allora, ben rientrato qua alla base, avanti tu. Mi sente anche lì con questo di polo qua. Non so, vabbè, mi ha risposto, vuol dire che mi sente anche lui comunque. Un secondo, qua, finisco, quindi devo staccarmi due caricabatterie della moletta dell'avvitatore, e riprendo subito. Ehi, ehi, sentite vai a Luca, Fortunato, c'è un di polo, bene che è arrivato. Sì, così sì. Le coordinate motorizzazione qua, lo sentivo bene. E Santiago, mi dispiace, sto guidando e un po' la vista stanca e non ci posso neanche dare un'occhiata, ma radio 5 è abbastanza competitivo. Bene, bene, no, a me non c'è bisogno di guardare lo smitter, basta che ti guardi il sedile a fianco, intanto sono lì. Vabbè, lo so che a te non devo guardare niente, caspita, sono di controllo, ho capito. Allora, sono sempre con te lì seduto a fianco, voi se avrei bisogno di darmi un controllo. Ascolta, ma dimmi una cosa, ma tu sei già in pensione, no? Confermi. 3 anni con quest'anno, novembre. Ah, che fa di Roger, dai. E vabbè, dai. Io faccio domanda 15, quasi. 62, il 16 mattina, sono già d'accordo con la mia 50, sono in ferie, che devo andare a Patronato a fare la domanda. Falla, falla Fortunato, falla che già ci sei dentro. E vai dimmi, io ho preso la palla al balzo, approfittando di quel coso che avevo inserito come lavoratore precoce, mi sono al 12 giubbedo. Sono 8 novembre 2017. A novembre del 2020 mi faccio 3 anni, esattamente. Quindi vai dimmi, perché i tempi sono molto molto duri. Positivo, bravo. Poi già lo sai, mettere che faccio io. Poi è proprio vero, più grande di 20 e più tutti gli acciacchi si presentano. No, niente, io vado con l'esercento. per un anno, no, 60 euro. Infatti mia moglie mi ha detto, te ne do io 60 euro. No, allora va, senta io, quanto vuoi 60 ne ho preso io, ma no, manco te l'ho toccato, non ho fatto 6, 100 euro in più, 100 euro in meno, portate a no, combattere con i pazzi tutti i 7 giorni, tutte le domeniche, tutte le feste, per 30 anni non ho conosciuto Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, ma va a sapere. K, Claudio, già lo so, lavoro tu. Come tu ben conosci il nostro, e adesso mi è fatta la richiesta, no, venerdì scorso, di salire su a Milano a dare una mano. E ho detto, prima che non dovessi andare a pensione devo salire a Milano a darti una mano. Ma finita, vai. Ecco, ti facevo la mano, la stessa cosa. La stessa cosa, guarda, siamo già con conteggi pronti, stavamo sempre, ah, c'è da andare una settimana lunga, ci vale, c'è bisogno di lei, torra, ancora vicino. Mi va passata la settimana di malattia, ancora non avevo preso. Guarda, l'ultimo anno mi stavo comportando molto male, non era da me, la verità, fortuna, perché ne avevo le belle piene. Ti giuro, ne avevo le belle piene, sembravo il burattino di turno, capito? Avevo un incarico un po' particolare, non lo sai, però sembravo buono di tutto. Cioè, la domenica per dire non ero di servizio, a riposo, perché ti toccava, no? Sono 5 domeniche, 4 domeniche, una ti tocca, due ti tocca, nulla, niente da fare. Niente da fare. Esce il mattino, telefonino, la sveglio, sì. Ehi, cosa vuoi? Allora se vuoi tu io mi sento male, torra, cazzo mi sentisci male domenica passata, domenica prima va anche un battissimo, la domenica ancora da mogliere che aggiunta la ricari, cazzo e adesso mi avete rotto le balle, io non posso ogni domenica coprire a voi, cazzo, capito? Ehi, la gente così. Ho capito, capito. No, io grazie a Dio già lo sai che mio collega è Antonello, e andiamo troppo d'accordo. Però io ho parlato con Antonello, mi piace creare casini, perché non è abitudine mia, noi veniamo da un'altra generazione, sacrifici, veramente la parola grande, sacrifici con l'S maiuscola, che abbiamo sempre lavorato, però ultimamente come stai dicendo per tu, se ne fanno passare la lavoro, ti danno servizi, non ti ha 20 anni, come che pensano, mi sono 2 anni, cazzo! Mi accorgo! Vabbè cazzo! Mi cazzo lì cazzo! Vabbè! Vabbè Lu! Vabbè fortuna, buonasera, dove sei? Ti ascolto un po' oscillante! Oscillante? Ma hai sentito la canzone? Allora! Dove sei? Io sono qua, vabbè, un antennino, c'ho piccolino, dai. Dove sei? Viene Porto Torres? No, negativo, mercato lì grosso. Ok, dai. C'ho una boomerang che mi sono interrato, dai, non sono a casa della mamma, Le coordinate sarebbero lunghe. Ma veloce, dai, casa della 25. Negativo, questo passaggio non l'ho capito qua. Io pensavo che mi arrivi fortissimo, è oscillante tra 5 e 6, 7, ma in sera entra un po' mancato se sei entrato. Ma stai dicendo, Claudio? Allora sì, una P50 di gnoglio, fortuna. Aspetta, Claudio. Ehi, non mi arrivi bene bene, fortuna. Non fare anche una pulizia alla testa. Sì, sei oscillante, ma è movimento, sì. Ragione Luca, figura, ti arrivi in basso a me, figura bello, 6, 5, 6, 7, non è un problema tuo lui, è un problema suo, dai, non ti preoccupare. Dai, un attimino, ok, che mi devo controllare, sto preparando il, diciamo, frutti di mare per domani, dai, per pranzo, vado a controllare il tutto, dai, io sono qui in ascolto. Lei, faccio di preparare da oggi frutti di mare per pranzo, ma sono preparato domani a mangiare. Ma ti fortuna, ma è già arrivato, sì. No, negativo. Però forse adesso sto migliorando, guarda adesso. Sì, adesso sì, adesso sei quasi 9 di nuovo. È recuperata. No, perché sto pensando, intanto poi mi piglia il santenne. Se non piglia i due, pigli i santenne, allora, con l'altezza che dove è piazzata, è chiaro che già riprende. Dai, Cla, ti accenno da parte mia. Un forte abbraccio, Cla, e già ci sentiamo. Quando posso già entro. Abbraccio contraccambiato, fortuna grande grande. Fatti sentire, mi fa piacere. Ciao, buon fine serata. Ciao, Claudio. Ciao, buonasera. Buonasera. E buonasera. Stavo leggendo su internet che Solina si vuole riaprire tutti i locali dopo sino alle 23 in Sardegna. Sino alle 23, dalle 7 alle 23, dalle 23 alle 5 al mattino copri fuoco, non si può uscire di casa, così deve fare, capito? Non chiudere il bar alle 6 e lasciare la gente in giro, non è il bar che fa il coronavirus, è la gente che fa il bar che fa il coronavirus, capito? Quindi dalle 23 alle 5 al mattino copri fuoco, nessuno può uscire di casa, allora forse ci salviamo. Ciao Robbe, buonasera. Ciao Gianni, ciao Claudio, sei stato di sfuggita a Luca, è fortunato però, da tanto che non lo sentivo. Ciao, se ci sei ancora, fortunato. Una volta che vuole che il cancello dell'azienda lui deve spegnere, se no disturba il computer. Che si dice? Che si dice? Tutto a posto, tutto ok, è tutto rocero. Stasera ci guardiamo al cempio. Adesso mi chiuso, alle 7:30 abbiamo due tranci grandi di pizze e via. Dove stai prendendo le pizze? Là? Ma io le prendo oggi, no, qua la piazzetta. Ah vabbè, già vicino. Io vabbè sono amico anche di Daniele, ci conosciamo da ragazzi, però per comodità vado dall'ex padre, dai, il padre è morto, dalle sorelle in via Catalocchino, sono veloci. Ma me la mando a casa e poi la fa a metro, capito? Non io la fa a metro, è buonissimo. Io ne prendo un metro, siamo in quattro. Ha voglia. Lui fa un metro, fa bene, non c'è problema. Vabbè Gianni, capito già, così è me. Restrizione totale, capito? Sino alle 11, poi dalle 23 alle 5 al mattino, blackout, nessuno può uscire di casa. Da lunedì alla domenica, senza restrizioni, vedete che ci salviamo. Infatti, dai, così facendo si salvano anche meccanici, tutti quelli che non possono aprire, eccetera, eccetera. Va bene, dai, baristi, insomma tutti quelli che fanno le cene, tipo ristoranti, ciao Robbe, comunque buonasera, speriamo che lo mettano in atto. Il ristorante non ti crede che fanno un grande bar, va bene, affiliato, chiudendo alle 10:30, quindi va bene, non è un problema, sta chiudendo alle 6, pazienza. I ristoranti non è che fanno molto, perché quando vai alle 9 a mangiare c'hai dolore, e cosa vuoi fare? Devi mangiare andattini, quindi penso che non è che facciano molto, con i ristoranti almeno sino a mezzanotte, però non è così, non si può fare, assolutamente, perché sennò la gente rimane in giro sino a mezzanotte, invece copri fuoco dalle 23 alle 5 del mattino come tutta l'Italia. Anzi, si suppone che a Napoli e a Milano ci sia il blackout totale, tutto il giorno, perché stanno salendo, sono 29.000, sono troppi, vai Robè. Vabbè, dai, non è tanto un argomento, se no siamo due di fa vedere, no, ci sono tanti pareri opposti, dai, io ho il mio parere, però è molto complicato da raccontare, c'è un bel argomento e basta, dai. Cosa volevo dire? Comunque non è così bello che il fine settimana almeno ce lo riusciamo a godere un pochettino, sempre che permetta a Roma di fare questa storia, perché non è detto che Roma accetti. Bolzano ha già fatto qualcosa sino alle 21, siamo regione autonoma e vediamo un po'. Se è bello ce l'abbiamo tutti al mare, dai. È stato bello, non freddo, già bello, cambiato il tempo, ormai non c'è più tempo bello. Non c'è più il tempo bello, no? Va bene. Ehi, no, ma infatti cambiamo argomento, che a me del buco e di doppio non me ne fotti nulla. Non c'ho niente da perdere, niente da guadagnare. Facciano le restrizioni che voglio. A me, basta mi facciano uscire quell'oretta la mattina, poi già c'ho altro da fare a casa. A casa, in ufficio, non ce n'è problema. Già mi sposto per necessità, non di certo per andare a fare buttato al bar. Vai già. Ehi, ma bisogna anche discutere delle cose, dai, vabbè, ognuno c'ha il suo parere, vedo che ci siete tutti pariti, ma comunque diciamo che non si sa che pesce prendere, da una parte temiamo i contagi, dall'altra parte ci sono le persone che devono lavorare, insomma è una cosa, è una decisione un po' ardua da prendere, ma comunque speriamo bene, dai, auguriamoci di bene. Comunque oggi c'era un bel sole, Claudio, ti voglio contraddire, c'era un sole che spaccava le pietre quando sono uscito con te, alle 10. Un sole che avevo dei dolori alla gamba, lo sai che mi sono passati, come mi batteva il sole. Vabbè, al sole, bello, se stai allo sole sì, ma se stai anche all'ombra non c'è caldo. Cioè, io sto parlando di temperatura, sono 18 gradi, non è già ne che vedere 26 gradi. No, se stai al sole, il sole scalda, è normale, no? Però siamo 18 gradi oggi, tutto il giorno c'è 18 gradi. A me viene dove ti fatto un bacco, comprendissi, no? Quando io porto il cane alle 8, oppure io la mattina esco alle 7, alle 7 meno un quarto, a portare mia figlia al lavoro, ci sono 8 gradi, 9 gradi, quindi non è più come prima, questo però di temperatura in generale, 18 gradi di temperatura c'era oggi, solo non sole, poi se ti metti al sole ti scalda. Io sono uscito in moto stamattina per dirlo a te, freddo non ne avevo. Devi coprire, pusci i pantaloncini e maghi d'occhio, vai Roberto. Vabbè, quello è normale, ma diciamo almeno non piove, ho visto che è entrato di nuovo il coso, il libeccio, oggi c'era un po' di mestralino e di ponente, poi è sceso, adesso inizia a entrare fine settimana da domani il vento da sud, per cui le temperature saranno un po' più gradevoli, anche se ci sono 20 gradi, però non c'è la brezza che magari ti fa percepire il freddo un po' di più. Dimmi un po', con quello stai uscendo, Clatto? Con 440, ho fatto il vettocchino stamattina, perché me ne hanno portato una e che ci aveva l'LC completamente chiuso. Stamattina ho detto, ma chi c'è contro la mia? Ho messo in LC, fischiavo, non arrivavo neanche a metà. Allora l'ho aperto e ho leggermente spostato il condensatore variabile, ma lo sono portato leggermente più della metà l'LC, dai. Al 25% l'ho portato al 40%, dai. No, oh, stai uscendo forte, perché l'altro giorno ti ricordi c'era quel problemino di potenza. No, quella non era la mia, non era la mia. Ah, una fagola, no, questa è perfetta. Va tutto alla grande, dai. Ok, Claudio, Gianni, tu la stai utilizzando invece? Galassi Saturnec. Ehi, ok, c'era Luca un attimino poco fa, scomparso. Luca, ci c'è ancora? Ecco che è andato a girare il sugo, boh, così mi ha detto. No, quella non è la mia, quella è quella che stavo controllando appunto quel coso lì, quel difetto lì, ma io non so neanche che coso era, quindi l'ho restituito al proprietario, penso che l'abbia mandata al centro assistenza, non so. Questa è la mia, questa è a posto, questa è, perché c'è il 430, 440 e 140. Sono tutte e tre a posto, nulla, tutte e tre allo stesso livello, perché sono una bomba. Ecco, il 140 per me è da favola, mai visto così perfetto. Te l'ho detto. Minchia, veramente, mi hai fatto fare un affare. Evidentemente quello che ce l'aveva non lo usava, ma proprio nuovo, esteticamente, internamente, e se non c'aveva manco il decimale, ho dovuto farlo, metterlo io, inserirlo io il decimale, quello è proprio un micro coso, come si dice, variabile dello slider, era completamente chiuso, LC chiuso, vatti chiusi, tutto, una bomba. Come questa l'ho fatta diventare, ma bella veramente, nuovo. Ehi, sono contento che sei soddisfatto, dai. Non c'è problema. Ma è morto il proprietario? Eh? È morto il proprietario che aveva quella radio? No, cacchio, già vuoi becca. Avevo detto che non era. No, aspetta, mi hanno detto che è tornato a casa addirittura, che se l'hanno ripreso a casa, vero, niente sai. Ehi, lui vive a casa sua, per conto suo, perché le sorelle sono una è sposata, un fratello è sposato, non so se ci sia anche una sorella in casa, sono figli di, è figlio di mio padrino, dai, cioè, il padre e la madre sono morti, e mi sembra l'anno scorso la madre e l'anno prima il padre. Lui sempre, scusa già, ma lui sempre lì abita, in quella, per scendere in Viale Mameli. Ok, è in via Savoia, al Discesone, abita sempre di lì. Ci abitava anche il padre e la madre, poi morta la madre, è successo un po' di confusione con la famiglia, poi adesso speriamo, solo quando è che l'ho sentito? Qualche mesetto fa, prima delle vacanze estive, dai, ci siamo visti di sfuggita, sembrava essere un po' meglio perché era un po' smandato quando l'avevo visto esattamente l'anno scorso, periodo natalizio, era un messo male. Ma quella persona robusta stai parlando? È un po' appesantito, dai. Io ho capito chi è. Ce l'ha sempre la moto rossa. No, non c'ha più niente, ha avuto problemi, grossi problemi ha venduto tutto. Una volta è venuto a Portottone, sì, stavo lavorando in pescheria in quel periodo, è venuto a comprare il pesce. Ed era vestito un po' trasaldato, l'ho visto, pare un barbone, e mi ha detto che c'aveva un qualcosa di viaggio, un'agenzia di viaggio. Cambiamo discorso per favore, che può ascoltare, non dobbiamo stare a parlare di qualche cosa, vai, chiudiamo il discorso, parliamo di altro, ok, va bene, ascolta, posso togliere il dolore a Danilo, vabbè, ho visto la zoppa stamattina. Da lunedì è così, ci ha toccato i talloni, ci ha comprato questa scarpa antifortunistica, dice bello, mi piace, ha preso la posta, questa l'aveva presa, mi sembra venerdì, credo, lunedì non riusciva neanche a cambiare, proprio tu l'hai visto oggi, era già più tranquillo, ma lunedì proprio non riusciva neanche a appoggiare il letto, cambiate immediatamente le scarpe, e anche l'hai giunto con quelle scarpe da tennis alte, ci vogliono scarpe morbide in modo che puoi fare il movimento, adesso il muscolo è infiammato, infatti ho detto mettiti scarpe leggere, mi è capitato anche a me qualche volta, per dire, quando stai d'estate con le ciabatte al mare, cose, un po' ti senti infiammato, però dipende dal plantare delle scarpe. Lui già portava queste scarpe da tennis alte, però non vanno bene. Lo so, le scarpe sono molto importanti, sono le scarpe buone, non fa. Io le uniche scarpe da tennis che porto bene sono le Transmitti, quelle dell'Adidas che ci devono fare, le ho prese anche da poco, le altre quelle della Enrico Colli, le altre se vai a comprare scarpe cinesi, mi fanno male i piedi, riprendi Gianni. Riprendi, vi lascio, dai che devo uscire, ci sentiamo ragazzi, fatemi bene, buona serata. Ciao, buona uscita, le prossime. Vai Roberto. Ciao già, buona passeggiata. Dai. Ok, no, le Transmitti, a me piacciono le scarpe da tennis in basso, io non le sopporto con le alte, ho visto che tutti le Nike, tutte con questo cacchio di sole con dentro che sembra che ci sia l'acqua dentro, tutte queste energy, tutte strane, no. Le scarpe da tennis mie sempre basse, flessibili, morbide, in modo che le calzi come un guanto, non mi sono mai piaciute. Ne ho comprate un paio l'anno scorso, mi sembra, non le ho ancora indossate, delle Champions, sono morbide, perché devono essere come i guanti, non è venuta di scarpone grosse. No, ma infatti, è così. Va bene. Stavo dicendo un'altra cosa, porca miseria, nulla. Ma quello, non l'hai provato quell'altro radio, nulla, non ti sei messo a fare niente. Non ti stai impegnando, vabbè che non hai gana, che... Ora dicevo perdere qualche ora, mi ce l'ho qua davanti sotto gli occhi, di vicino, perché a far accendere sì che l'ho messo, l'ho fatta funzionare, però col microfono ho provato con un MC60, però era troppo basso, mi hanno detto era una gaggada, ma l'ho provata col microfono suo, poi ci mettiamo d'accordo, ho detto, poi se la vuoi tra, non è la macchina bene, la prendimi, io le cose la voglio provare bene, nel modo di dire, esci, sono soddisfatto, mi piace, l'altro giorno quando ho fatto mi sono perso, era un po' pieno di altre cose, non ho avuto modo di provare. Forse non hai capito che ho suonato la rametta, quindi tienila lì e arrangiati. Io non c'ho posto, l'avevo già attaccata, roba, l'avevo messa dentro l'armadio. Non c'ho assolutamente posto, quindi tienila lì e usala quanto vuoi, fai le prove che vuoi. Ti consiglio di provarla in banda amatoriale perché c'è veramente molto bene. Come microfono normale, sì, però stai attento, controlla il jack perché a me lo dovevo tenere con dito, evidentemente c'è qualche filo, tocca o non tocca, non so, però c'è molto bene col microfono normale. messaggio credo. Ciao, a dopo. Ovvero carino, aspetta che prendo il telefono Rubi. Ok. Ci sono con la Rubi. Perché il mio segretario mi ha mandato un audio. Vediamo, se che l'ascolto poi ti rispondo Rubi. Sì, sì, no, ho capito, no, ho chiamato a Luca se c'era lui, e boh. Ciao, vabbè. Ciao, lui, vabbè. Allora, che si dice, chiappa? No, ti ho visto, ti ho commentato la radio, quella che hai messo, ogni tanto ne vedo qualcuno. Ho visto qualche commento di Sapientoni. Non ci faccio più neanche caso. Infatti, come è ben letto, nell'annuncio ho messo di contattarmi solo via telefono, via WhatsApp, perché è solo più il tempo che ti fanno perdere sul Messenger che altro. Lo so, ma guarda, a me mi fanno venire i nervi quando sento questi commenti. Io, per dire, sono appassionato di hi-fi e diciamo un po' di esperienza ce l'ho. Cacchio, ma leggo certi commenti di gente, tu li puoi far vedere la Ferrari, ti commentano anche la Ferrari e ti dicono ma secondo me c'ha questo difetto. Cacchio, gente che non sa manco dove c'ha i piedi, e questo qua che ha commentato l'hai visto e tu già l'hai risposto bene. Guarda, ormai non ci faccio più caso, è un mercatino, non è un coso che stiamo facendo, è un mercatino, e boh, infatti affari tuoi, non devi commentare, non stiamo aprendo una disputa o che cosa su questa radio. Eh certo, se non te la futti nuda, tu stai vedendo una cosa, il prezzo è 100 euro, 200 euro, a te cosa te la futti se c'è il pezzo rotto oppure non si trova il pezzo, chi lo vuole l'interesse? Io quando sento gente che commenta di cose che non gliela futti nuda per farsi vedere grande, non ti interessa, non è valida, al limite se ti interessa dici per me 400 euro è troppo, o 500 euro, dammelo 380 o 500 o 480, e buh, e finisce lì, lo dici in privato. Io compro spesso su internet, anche me l'altro giorno ho comprato, per dire, abbiamo avuto una bella conversazione, mi ha mandato quello che mi serviva questo tipo, siamo stati in ultimi rapporti, mi ha mandato due componenti che è eccezionale, a un prezzo assurdo, mi ha fatto il video, tutto quanto, è stato eccezionale, infatti ho detto complimenti in gamba, mica mi vengo a fare i commenti di Guido perché ti stai prendendo facendo. Te l'ho detto, ecco perché non rispondo a Messenger, perché ti fanno perdere solo tempo, è disponibile, ma poi manco di una palla ricarica. Capito? Allora, se vogliono, se sono realmente interessati, numero di telefono è blu. E comunque, nonostante quello, già ci sono, anche lì tirano il prezzo, li vai incontro, e non ti zeccano i biromatessi, però sono molti meno che su Messenger, capito? Allora, aspetta un attimo. C'è qualche donato qua su 10 che vuole entrare? Sì, avanti. Sono qua, Robè. Ascoltati tu l'audio, ascoltalo bene, perché tu non ti vuoi ripetere chi ci ti ha detto. Ascoltalo bene bene, ok? Non ve ne è video da voi anche se radio, che cazzo il video vostro ci non fa vedere nessuno, voi ce ne potete intendere un QRM. Ma sono fissati questa gente che compra, vuole vedere il video. Come fai a fare un video a una radio VU del 780 quando non parla nessuno? Lo posso fare in un HF, l'ho fatto, perché la gente parla, ascolta, ricezione e trasmissione, non che cosa fa vedi, comunque fa vedi, con bingo bongo. Ehi, adesso. Cazzo fissati sono, vuoi un video, ne vuoi un bongo di balle, di boi, ma se sei interessato, hai la foto alla radio, quella è, punto. E certo, la vita quella che ti ho detto io, quella la Puni, sono andata a questo qua, mi aveva appena messo il messaggio, ho detto è disponibile, sì, mandami il numero di telefono, sono andato, l'ho telefonato, ma non lo so se funziona, l'ho provato, mi va benissimo, così. Io sto acquistando a rischio e pericolo mio, eppure la vita perfetta, funziona perfettamente. E così questo degli altoparlanti che ho trovato, anzi è stato lui gentilissimo, ti mando, ho detto guarda io mi fido, già detto da come mi stai parlando mi rendo conto che sono una persona corretta, no ma te lo faccio vedere. Ti mando il video, mi ha fatto il video, gli ha dato parlanti, gli ha messo in sottoalimentazione, addirittura per far vedere che si muovevano, gli ha messo sopra dei pezzettini di carta per farveli muovere, me li ha messo in laboratorio, ha detto mi, questi sono arrivati una bomba, infatti contentissimo, lui infatti è stato gentile, gli ha detto complimenti, bravo acquirente, venditore in questo caso. Buonasera. Ciao Tony. Ciao Tony, buonasera, ben ascoltato. Che altre foto vuoi? Te ne ho mandato due. Mi ha un attimo per me. Luca, aspetta un attimo Tony che devo sono rientrato, c'è qualcuno? Una. Ehi, sono... c'era Tonino Cavazzacca, non so se c'è ancora, io sto messaggiando, un attimino, Roberto. Ehi, ok, fai, fai. Non so, c'era Tonino, Tonino. Boh, chiamato anche io, ho detto, mi sono trovato un attimino per rispondere a mia figlia, poi sono rientrato e non c'è più nessuno. Non lo so, se è andato a 23, non lo so. Io sono un attimo al telefono e sono alle prese con questa radio che sto prendendo, andiamo in bocca di balli, ok? Un attimino. Sì, avanti. La tecca devo telefonare a Fritta, se no, no, che non abbiamo bene questa radio, aspetta un attimo. Sì, che sì, devo entrare, Oh, vabbè. Poi, qua sì. C'è nessuno? Che c'è su 10, che c'è? C'è qualcuno su 10? C'è qualcuno qua? Avanti! Avanti! Avanti che vuole entrare, avanti, avanti! Andiamo, vai, andiamo! Chiedi! Bambù, andiamo, vai, andiamo! Chiedi! Andiamo, vai, no, che c'è? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Canale 10, canale 10, c'è qualcuno? Ascolto, capa. Chi è? Avanti, chi è? Chi è? Oh, yeah.